187. Cotolette di carciofi. Certe signore si dolevano di non trovare nel mio libro questo fritto, ed eccole appagate. Prendete due carciofi grossi, nettateli dalle foglie dure e raschiate nel gambo, poi lessateli ma non troppo, e così bollenti tagliateli per il lungo in 5 fette ciascuno, lasciandoci un po' di gambo, e conditeli con sale e pepe. Fate una balsamella così: farina grammi 30, burro grammi 30, parmigiano grattato grammi 20, latte decilitri 2, tolta dal fuoco, mescolateci un rosso d'uovo, il parmigiano e una presa di sale, e prese su ad una pel gambo le fette dei carciofi, immergetele nella balsamella, distendetele su un vassoio e con un cucchiaio ricopritele con la balsamella rimasta. Dopo diverse ore, quando saranno ben diacce, doratele con un uovo frullato, impanatele e friggetele nell'olio o nello strutto.